2024 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata dell'8 settembre 2012. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Iniziamo dal nostro indirizzo di posta elettronica, come sempre vi ricordo i contatti di 2024, l'email 2024@radio24.it. Potete utilizzare la nostra pagina Facebook per lasciare un messaggio, anche se il messaggio è un po' complicato, speriamo non troppo lungo, forse è preferibile scriverlo via mail. Oltre a questo potete seguire il nostro contatto su Twitter, molto semplice, chiocciolina 2024 scritto in cifra underscore R24, che sta per Radio 24, oppure chiocciolina E, che sta per Enrico underscore Pagliarini. Io sono appunto Enrico Pagliarini. In questa puntata parleremo di una novità presentata questa settimana, questo tra poco. Adesso iniziamo dal alcune notizie della settimana. Digital News. Nokia e Microsoft hanno presentato mercoledì i primi smartphone con il nuovo sistema operativo Windows Phone 8, che arriveranno sul mercato tra novembre e dicembre, anche se Nokia non ha comunicato né data né prezzo. Il top di gamma è Lumia 920, che l'amministratore delegato di Nokia, Steven Elop, definisce come lo smartphone più innovativo del mondo. And today with Windows Phone 8, we are creating the most personal smartphone experience. We started with the ambition that Nokia could build something beautifully different. This is Lumia, the world's most innovative smartphone. Tra le caratteristiche innovative c'è un sistema integrato di ricarica senza fili ad induzione magnetica. Basterà appoggiare il telefono su una piattaforma per ricaricarlo. La tecnologia Super Sensitive Touch permette di usare il touchscreen anche con guanti e unghie. Per i nuovi smartphone, che sono un'evoluzione anche in termini di design degli attuali Lumia, Nokia punta sulla qualità delle fotocamere e sui servizi di informazione geolocalizzata. Digital News. Nello stesso giorno, Motorola ha presentato tre nuovi smartphone della serie Razr, annunciando anche i tre pilastri che dovrebbero rilanciare il marchio Motorola. Connettività 4G su tutti i terminali, migliore durata della batteria e aggiornamenti più tempestivi del sistema operativo Android. La prossima settimana, mercoledì 12, Apple presenterà iPhone 5. Digital News. Mentre si attendono nuovi sviluppi sulla battaglia legale che contrappone Apple e Samsung, per l'azienda coreana si riaccende un altro fronte sempre legato ai brevetti. Quelli per lo sviluppo dei televisori con tecnologia OLED che dovrebbero arrivare sul mercato nei prossimi mesi. Samsung ha fatto causa ad LG per aver copiato una serie di tecnologie e dopo che in primavera erano state arrestate in Corea 11 persone per aver venduto informazioni segrete ad LG. Altra notizia, forse legata alla stessa Spy Story. Questa settimana, due prototipi di TV OLED Samsung in viaggio per l'IFA di Berlino sono stati rubati. Digital News. Quanto è grande l'impatto di Internet sulla società e l'economia di un paese? Secondo il Web Index della World Wide Web Foundation, al primo posto al mondo c'è la Svezia, che supera Stati Uniti e Gran Bretagna. Francia e Germania sono al 14° e 16° posto. L'Italia occupa la posizione numero 23. Digital News. Nuova operazione della Polizia delle Comunicazioni contro il crimine informatico. Quattro persone arrestate in Italia avrebbero raggirato in 6 mesi 489 persone, spesso tramite phishing, ottenendo così i numeri di carte di credito per un danno di oltre 200.000 euro. E questa era una selezione, come facciamo spesso tutte le settimane, delle notizie più importanti degli ultimi giorni. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, vi vorrei ricordare un paio di cose prima di entrare nel vivo di questa puntata con la nostra prima intervista. Allora, la prima è che dalla prossima settimana, quindi dal 15 di settembre, riprenderemo la versione tradizionale più estesa rispetto alla mezz'ora che ci siamo riservati durante l'estate, quindi torniamo alla programmazione tradizionale tutti i sabati nel pomeriggio di Radio 24. Naturalmente sulla nostra pagina Facebook troverete maggiori dettagli e anche sulla nostra pagina sul nostro sito internet www.radio24.it. La seconda cosa che vorrei ricordarvi è, proprio in occasione della ripresa delle nostre trasmissioni, la possibilità di abbonarsi gratuitamente al servizio podcast. È un sistema molto comodo, molto semplice per scaricare automaticamente o anche manualmente, ma è più comodo in modo automatico, le nostre puntate in versione MP3. In alternativa andate sul nostro sito internet, nel nostro archivio trovate le puntate che potete ascoltare in streaming oppure potete scaricare manualmente, ma insomma il podcast mi sembra che sia la soluzione migliore, anche perché quasi tutti i programmi di Radio 24 sono disponibili in podcast, quindi potete abbonarvi naturalmente in primis a 2024, ma poi scegliere anche altri programmi. Bene, come vi dicevo, questa settimana c'è stata una presentazione. Allora, noi abbiamo seguito questo annuncio fatto da Amazon e abbiamo intervistato Diego Piacentini, che è vicepresidente di Amazon. Allora, quello che abbiamo presentato ieri sera è già in vendita da questa mattina su Amazon.it, è una serie di nuovi prodotti della famiglia Kindle. Il primo è il Kindle base e-ink di tecnologia schermo a 79 euro e i nuovi tablet, l'Amazon Kindle Fire a 159 euro e l'Amazon Kindle Fire ad alta definizione a 16 e a 32 giga, uno a 199 euro e l'altro a 249. Il prezzo di per sé stesso è simbolo di quanto vogliamo aggredire il mercato e il maggior numero di consumatori possibili. Uno di questi tablet, l'8,9 pollici, per il momento non arriverà in Italia. Gli altri quando saranno disponibili? Allora, i 7 pollici di cui ho appena parlato, gli ordini si possono già prendere su Amazon.it e li spediremo il 25 ottobre. L'importante novità è che questi prodotti non sono disponibili solamente su Amazon, ma incominciano ad essere disponibili anche in negozi fisici, quindi si possono trovare ad esempio nei negozi di Unieuro, di PC City e anche ad esempio dei Dixons che stanno negli aeroporti. Naturalmente l'attenzione di questo annuncio è focalizzata prevalentemente sui tablet, al di là dell'aggiornamento del Kindle. Per quale motivo siete interessati ai tablet, che sono una novità per l'Italia, ma un prodotto, il Fire, che era già disponibile negli Stati Uniti? Allora, perché l'approccio di Amazon non è quello solamente di proporre un gadget con le migliori caratteristiche possibili, e questo gadget ha delle caratteristiche su schermo, audio, velocità del Wi-Fi molto potenti e migliori rispetto ai tablet attuali sul mercato, ma è questo concetto di servizio, cioè è la compatibilità tra le piattaforme. Ti ricordo ad esempio che se hai una Kindle application sull'iPhone o su un iPhone Android, puoi continuare a leggere il tuo libro che hai cominciato a leggere su Kindle. La quantità di contenuti incredibile, di libri su Kindle in Italia, abbiamo ormai quasi 30.000 in italiano e quasi 1 milione in inglese. Lanciamo anche il negozio di musica digitale tra poche settimane in Italia, l'MP3 Store, con milioni di pezzi musicali in italiano e in inglese. Settimana scorsa abbiamo lanciato l'app Shop, quindi lo shop delle applications in italiano, quindi tu capisci che questo tablet crea questo ecosistema di contenuti. Quindi voi state dicendo non ci interessa guadagnare dall'hardware, anche perché molti stimano che il guadagno sull'hardware sia molto molto basso, ma ci interessa mettere nelle mani dei consumatori un prodotto che possa far poi acquistare i nostri servizi. Esatto. Noi riteniamo che un prezzo molto basso dell'hardware possa creare questo circolo virtuoso per cui più clienti lo comprano, a questo punto i proprietari dei contenuti, i licenziatari dei contenuti si convincono che i contenuti digitali devono essere messi su Kindle e questo continua a generare questo circolo virtuoso, perché più contenuti ci sono, più clienti ci saranno. C'è il rischio che almeno per la parte libri il tablet cannibalizzi il Kindle tradizionale? I nostri dati ci dicono di no, anche perché a prezzi così bassi effettivamente tante famiglie negli Stati Uniti hanno sia il Kindle Fire che il Kindle e-ink. All'interno di questa strategia avrebbe a questo punto un senso anche uno smartphone? Non mi sento di commentare su queste cose. Ma nemmeno anche, diciamo, in assoluto, se ha un senso che ci sia uno smartphone? Esattamente, non mi sento di commentare su queste cose. Quando noi compriamo un prodotto fisico diventa di nostra proprietà, quando compriamo un prodotto digitale, virtuale, che sia un libro, solo che sia una canzone. Compriamo la proprietà o solo il diritto all'uso? Ah, questi sono dibattiti giuridici che si stanno evolvendo, quindi immagino anche che la legislazione sull'argomento è una legislazione che andrà in evoluzione. In questo momento, ad esempio, si può comprare e diventare utilizzatori di questi servizi digitali e utilizzarli anche su device multiple. Quindi ad esempio il Kindle Book lo leggi sul Kindle, ma lo puoi leggere anche sul PC, sul Macintosh, su altri device che sono all'interno della famiglia. Questa sottile differenza tra proprietà e possesso, torno a dire, appartiene alla disciplina giuridica. Immagino che ci saranno parecchie evoluzioni sull'argomento. A proposito di commercio elettronico, quali sono le vostre prospettive a questo punto più che mondiali, americane, sull'Europa e se possibile anche sull'Italia? Perché molti dati ci dicono che anche quest'anno l'e-commerce crescerà molto anche nel nostro paese. Voi che cosa dite? Paradossalmente gli ultimi due paesi sui quali noi abbiamo investito sono, nell'ordine cronologico, Spagna un anno fa, Italia due anni fa, che mi sembra chiaramente anticiclico. Non so di quante aziende abbiano investito in Italia e in Spagna negli ultimi due anni contemporaneamente. Questo perché? Perché, come hai detto tu, il commercio elettronico è in questo momento un settore economico di controtendenza. Perché? Perché offre prezzi bassi, infinità di offerta, qualità di servizio. In genere queste sono caratteristiche di un servizio che funzionano in qualsiasi momento della crescita economica. A proposito di investimenti, ho letto che voi state investendo moltissimo su nuovi centri di distribuzione negli Stati Uniti per arrivare a fare quella che gli esperti chiamano one day delivery, cioè ordino alla mattina e al pomeriggio mi consegnate. Che tipo di evoluzione ci sarà da questo punto di vista? Hai toccato su un punto molto interessante. Tra l'altro faccio presente che Amazon in Giappone consegna già in 6-7 ore da 2-3 anni. In Giappone, ad esempio, consegniamo anche tramite i cosiddetti convenience stores, quindi un cliente ordina il prodotto e lo può andare a ritirare al negozio sotto casa. Quindi la cosiddetta last mile delivery, quindi la consegna dell'ultimo miglio, è un'area di evoluzione molto molto interessante per noi. E quindi, diciamo, si estenderà a tutto il mondo. Assolutamente, non a caso, voglio dire, senza rivelare nessun segreto, uno dei motivi per cui abbiamo aperto il centro di distribuzione a Piacenza, di cui tra l'altro abbiamo appena raddoppiato la superficie rispetto all'anno scorso, è perché Piacenza è vicina a Milano, a centri urbani molto popolosi. Seconda parte di 2024, questa è ancora la nostra versione estiva, la nostra ultima puntata della versione estiva. Dalla prossima settimana rientreremo in pista come si deve, come si dice, il sabato pomeriggio su Radio 24 nella nostra versione tradizionale 15:30-17. Io sono Enrico Paglierini, potete scrivere una email al nostro indirizzo di posta elettronica molto semplice, 2024, quindi 2024, @radio24.it. Anche per suggerire temi per la prossima settimana, durante l'estate alcuni ascoltatori ci hanno scritto in molti, ma direi alcuni ascoltatori hanno sottolineato e descritto alcuni temi che vorrebbero approfondire, quindi cercheremo di farlo, magari cogliendo anche qualche segnale di attualità nelle prossime settimane. Quindi vi invito a proporre temi che ritenete siano interessanti da approfondire con i nostri esperti. A proposito di esperti, adesso vi propongo un'intervista che abbiamo realizzato con Antonella Napolitano, che è editor europea di un'organizzazione che si chiama Personal Democracy Media, che è un'organizzazione che raccoglie persone che hanno esperienze di tecnologia, ma anche di politiche e di attivismo, proprio perché la politica e molte campagne si stanno trasferendo online. Ne abbiamo parlato tante volte, diciamo che buona parte della nostra vita si sta digitalizzando e quindi anche la politica si sta digitalizzando. Il punto di dibattito, il punto di incontro per tante cose è la rete. Facebook è uno dei punti di dibattito magari un po' superficiali per certe persone, ma insomma sicuramente è un punto dove le persone si trovano, possono discutere, possono aderire a delle campagne. Insomma, è indiscutibile che questo stia avvenendo già da un po' di tempo, sicuramente negli Stati Uniti o comunque in generale nei paesi dove l'utilizzo della rete è più evoluto, questo sta accadendo. Ma di certo questo sta avvenendo anche in Italia. Pensiamo al fenomeno di Beppe Grillo, e pensiamo che alcuni partiti hanno cominciato ad utilizzare in modo strutturato, serio, la rete internet. Poi certo, anche in quel caso contano le idee più che l'utilizzo della tecnologia, ma sicuramente questo è un buon punto di partenza. Allora, con Antonella Napolitano abbiamo fatto questa chiacchierata proprio per capire che cosa sta accadendo in giro per il mondo e in generale sulla rete a proposito di politica. In generale sta avvenendo che la rete, quindi gli strumenti della rete, stanno dando ai cittadini, ai militanti anche, la possibilità di partecipare attivamente alle campagne elettorali, sia organizzandosi per conto proprio e anche in modo, diciamo, autonomo, inventando dei nuovi modi, sia tramite la campagna elettorale fornisce gli strumenti. È quello che è successo dalla campagna di Barack Obama del 2008 e tuttora sta succedendo. BarackObama.com è un sito, è un social network, dà la possibilità di iscriversi, inserire le proprie informazioni, di incontrarsi e agire sul territorio. Quindi la rete crea delle collaborazioni, crea degli incontri, della condivisione che poi si trasformano e si trasferiscono sul territorio. Ci sono in tempi più recenti, anche quest'anno la campagna Obama è la più all'avanguardia, ha utilizzato gli social network che si sono diffusi di più ultimamente, quindi Tumblr, Instagram. Michelle Obama è su Pinterest, che in questi ultimi mesi è diventato un social network molto conosciuto soprattutto da un pubblico femminile. Ci sono poi dei social network che stanno diventando popolari perché sono proprio legati alla campagna elettorale, ma non, diciamo, di un partito politico o di un altro, come Nation Builder negli Stati Uniti, oppure che stanno creando modi nuovi di interagire tra un partito e i propri militanti e le persone che, diciamo, vogliono collaborare alla creazione delle policy, come Liquid Feedback per il partito pirata tedesco. Ecco, noi siamo passati da un quadro generale a delle piattaforme, perché quello che sta succedendo è che questo fenomeno è partito dai classici siti internet, da alcuni social network come ad esempio Facebook come strumenti di condivisione. Poi nel corso degli ultimi anni sono nate delle piattaforme, dei software anche o comunque dei social network specializzati per creare campagne, per organizzare i partiti sul territorio. Come funzionano sostanzialmente questi strumenti? Ovviamente, diciamo, con delle differenze, ma a grandi linee una delle possibilità nuove che danno è quella di feedback diretto e quasi immediato alle proposte. Liquid Feedback, per esempio, permette di votare su una serie di proposte, addirittura di delegare il proprio voto su alcune proposte, di emendare. Il partito pirata tedesco usa molto anche i wiki, che sono dei siti facilmente modificabili da chiunque, e che però mantengono tutte le modifiche che sono state fatte, quindi permettono di guardare lo storico delle varie modifiche, un po' come Wikipedia. Nation Builder dà la possibilità di aggregare i contenuti che abbiamo sui nostri social network, permette di creare interazione tra questi contenuti, quindi l'immediatezza e l'aggregazione sono le due caratteristiche principali. Queste piattaforme sono nate, costruite per un paese o per un partito, quindi sono adatte, che ne so, Liquid Feedback per il sistema tedesco, o possono essere applicate anche al sistema italiano? Non nascono per un paese, nascono per una necessità più che altro. Il partito pirata tedesco ha creato una piattaforma di questo tipo per avere un luogo per discutere le idee, le proposte politiche che fosse confacente al modello che loro propongono. Quindi è un modello, tra l'altro, aperto, che può essere replicato, probabilmente adattato. Nation Builder nasce, tra l'altro, e questo è abbastanza curioso considerato che l'America è molto è divisa, diciamo, tra repubblicani e democratici, nasce proprio da due consulenti politici e attivisti con due storie molto diverse sui due lati diversi, diciamo, politici. Uno è un ex compagno di stanza di Mark Zuckerberg ad Harvard, e un altro è un reborn Christian, quindi uno che ha tutta una storia di un convertito, diciamo, un po' come George Bush, un cristiano rinato, credo sia la traduzione in italiano, quindi ha quindi repubblicani anche, diciamo, piuttosto di idee piuttosto definite. Sono strumenti che possono facilmente essere adattati, non nascono in un contesto, cioè nascono in un contesto politico, ma non nascono per un paese, quindi a cui si può senz'altro guardare per trovare nuove idee, per discussione e partecipazione. Queste cose vengono già utilizzate anche in Italia, o gli esempi che vediamo in Italia sono limitati, diciamo così, a Facebook o altre piattaforme che già vengono utilizzate però per tantissime altre cose? Al momento in Italia si usano molti sistemi, diciamo, molti strumenti adattati, cioè Facebook viene utilizzato, Twitter viene utilizzato per fare partecipazione su alcuni temi, ma non sono nati così. Vengono usati wiki, Grillo è diventato un fenomeno diffusissimo a partire da Meetup, che è questo sito americano nato dopo l'11 settembre per aggregare persone su vari temi, ed è diventato effettivamente un luogo che crea sia a livello locale che a livello di temi la possibilità di incontrarsi e di fare poi dei meetup, cioè dei luoghi fisici di incontro, ma non solo su temi politici, ma dei temi più svariati, cioè adesso dall'uncinetto ai fan di Star Trek ci sono gruppi praticamente su tutto e in tutto il mondo. Meetup è molto consapevole, nasce appunto in ambito, diciamo, comunque politico, o comunque, diciamo, di necessità di persone di collegarsi. È stato molto usato in politica, è stato molto usato da Beppe Grillo, e per esempio, appunto, io ho intervistato i fondatori di Meetup, cioè nella sede di Meetup ci sono diversi cartelli sui Meetup di Beppe Grillo, cioè loro sono perfettamente consapevoli che Grillo è stato uno dei più, diciamo, i gruppi legati a Grillo, uno dei più attivi in questo senso. Non ci sono strumenti, diciamo, creati apposta, ma non è detto che sia necessariamente un problema, finché queste modalità vengono usate effettivamente per creare dialogo e per creare forme di partecipazione. Molto interessante, sicuramente questo è un tema di cui parlare e su cui scopriremo cose anche nei prossimi mesi, visto che anche in Italia ci avviciniamo sempre di più alle elezioni. A proposito di politica e di social network e di internet, abbiamo lanciato il sabato mattina alle 9 un programma condotto da Simone Spezia che si occupa proprio di politica fondamentalmente, ma la politica osservata attraverso la rete. Io sono Enrico Paglierini, grazie per la vostra attenzione anche per questa settimana. Vi ricordo che dal prossimo sabato, nel pomeriggio di Radio 24, riparte la versione tradizionale, chiamiamola autunno, inverno, primavera di 2024. Potete scriverci per le vostre proposte. Io vi ricordo come sempre di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast di Radio 24 e naturalmente abbonarvi al feed, al podcast di 2024. Grazie come sempre ai nostri tecnici, in particolare in questa settimana a Paolo Corleoni, e grazie anche ad Anita Panizza nella nostra redazione. Appuntamento alla prossima settimana. 2024.